Letture di Radio 24. Non si ferma l'inchiesta del Fatto Quotidiano sugli imbrogli che da almeno una decina d'anni le Poste Italiane mettono in atto per aggirare i controlli sulla qualità del servizio. In base al contratto sottoscritto con lo Stato, le Poste possono essere costrette a pagare fino a 500.000 euro all'anno di sanzione se non rispettano i parametri prefissati. Fino a pochi mesi fa il servizio era monitorato dalla Easy SRL, che attraverso un campione di cosiddette lettere civetta aveva il compito di verificare in quanto tempo la corrispondenza veniva consegnata. Si è scoperto però che Poste Italiane da anni conosceva molti dei nominativi dei controllori scelti dall'Easy, riuscendo così a creare una corsia preferenziale per consegnare nei tempi previsti queste lettere civette. Dopo la denuncia del Fatto Quotidiano, Poste Italiane in gennaio ha operato decine di licenziamenti e sospeso migliaia di dipendenti. Ma non ha perso il vizio di imbrogliare sulla qualità del servizio, perché, come scrive Daniele Martini sul Fatto di martedì scorso, ad essere ingannati non sono solo lo Stato e i clienti normali, ma anche i grandi clienti, quelli che spediscono migliaia di comunicazioni alla volta, ai quali è rivolto il servizio chiamato Posta Target e la nuova linea Evolution, che, come spiega Poste Italiane, si compone di servizi a valore aggiunto che consentono il monitoraggio e la rendicontazione elettronica delle spedizioni. Ma anche qui c'è qualcosa che non va e la nuova truffa è stata denunciata nei giorni scorsi dalla UIL, che ha inviato una lettera all'amministratore di Poste Italiane, Francesco Caio, al responsabile della gestione operativa del mercato privati, Daniele Giovanni Nardone, e al capo del personale, Fabrizio Barbieri. La lettera della UIL è chiara nella denuncia dell'imbroglio. Ci è giunta notizia dalle nostre strutture territoriali che in alcuni centri di distribuzione postale si danno indicazioni agli addetti al recapito di tracciare tutto il corriere della Posta Evolution in arrivo nella giornata di riferimento, a prescindere dalla consegna. Sconsolante la conclusione. Tale condotta assume particolare gravità soprattutto alla luce di quanto sta accadendo con la vicenda dei dati falsati sulla qualità. Secondo la UIL, l'imbroglio gira a pieno regime a Salerno, dove è stato denunciato anche da un COBAS locale, a Roma e a Milano. Ma forse già in tutta Italia Posta Evolution ha i medesimi problemi. Come è organizzata la stangata lo spiega al Fatto il segretario dei postini UIL, Paolo Giordani. Il postino dovrebbe segnalare con il palmare a sua disposizione il momento fisico della consegna della lettera al destinatario, cioè quando è davvero infilata nella cassetta postale. E invece la segnalazione viene inserita sul palmare molto prima, quando la lettera è ancora nel centro di smistamento, distante chilometri dal punto di consegna. Ammesso che la consegna venga poi effettuata davvero, magari ore dopo o nei giorni successivi, o anche mai. Il monitoraggio della corrispondenza non è un dettaglio. Serve alle aziende per avere la certezza del buon esito della spedizione. È una parte del servizio a cui è stato dato un nome, Linea Evolution, qui e ora, pagato sulla base di un tariffario preciso. Secondo il sindacalista Will, i postini si comportano così, cioè barano, perché sono indotti dai capi a farlo, come è successo per anni con le lettere civetta. Insomma, anche su Target Evolution pesa l'accusa di una truffa in grande stile, promossa dai vertici. Conoscendo perfettamente lo stato disastroso del servizio, i dirigenti sono consapevoli di non poterlo svolgere con puntualità, nel rispetto dei contratti, e quindi si tenta di aggirare il problema. A dimostrazione che una volta conclusa con successo l'operazione di quotazione delle Poste in borsa, il nuovo amministratore Caio avrà molto da fare per riportare un po' d'ordine nel servizio della consegna di lettere e pacchi, che, almeno in teoria, dovrebbe costituire la ragione sociale dell'azienda. A meno che anche Caio non pensi che le Poste sono banca e assicurazione e le lettere un fardello di cui disfarsi, magari infilandole in una bad company da rifilare allo Stato. E quelli che avete ascoltato erano alcuni passaggi dell'articolo di Daniele Martini, Poste ci ricasca, consegne truccate per i grandi clienti, dal Fatto Quotidiano dell'8 marzo. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Letture di Radio 24. Curioso come su 206 inni nazionali, solo uno, quello della Germania, sia stato scritto da un compositore famoso, Franz Joseph Haydn, che per la verità l'aveva scritto per l'Austria nel 1797. Quando poi nel 1922 la Germania decise di adottarlo, cambiò le prime parole del testo originale da «Gott erhalte Franz den Kaiser», «Dio salvi l'imperatore Francesco», a «Deutschland über alles». In realtà ci furono altri celebri compositori che tentarono di scrivere un inno per il loro paese, ma senza successo. Nel 1942 Stalin decise che c'era bisogno di un nuovo inno nazionale che rimpiazzasse l'Internazionale. Ben presto ogni compositore sovietico, da Prokofiev a Khachaturian a Shostakovich, si cimentò con la magniloquenza comunista nella speranza che il proprio brano venisse prescelto. Impossibile stabilire se il loro entusiasmo fosse autentico, sia perché avevano poche possibilità di scelta, chi poteva dire di no a Stalin, sia perché la competizione prometteva lauti guadagni. Ogni brano proposto era pagato 4.000 rubli, 10 volte la paga media mensile dell'epoca. Shostakovich guadagnò 34.000 rubli per le sue svariate proposte, nessuna delle quali venne giudicata sufficientemente interessante da essere mai incisa. Khachaturian ottenne 30.000 rubli, che comprendevano anche il pagamento di una composizione che poi divenne l'inno nazionale dell'Armenia, almeno fino al 1991. Quando poi venne abbandonato. Gli autori che scrivevano i testi per Stalin volevano a tutti i costi che venisse scelta una musica scritta da un compositore famoso. Ma Stalin ignorò la loro richiesta e scelse un brano scritto da un certo Alexander Alexandrov. La sua composizione, che è tuttora l'inno nazionale russo, era così carica di incitamenti e minacce che avrebbe spinto chiunque ad avventurarsi nella steppa. Anche se Shostakovich la pensava diversamente, un inno nazionale deve avere una musica brutta, commentò, e Stalin ha mantenuto le tradizioni. Ancora più strano è il fatto che il compositore inglese Benjamin Britten una volta aveva cercato di scrivere un inno nazionale per la Malesia, un paese dove era stato solo una volta e solo per poche ore. Nel giugno del 1957, la Federazione della Malesia stava per diventare indipendente dalla Gran Bretagna, ma il suo governo non era riuscito a trovare un inno nazionale adeguato e così si era rivolto a due musicisti inglesi, Benjamin Britten e William Walton, e all'italo americano Giancarlo Menotti, chiedendo loro di provare a comporne uno. Solo Britten accettò la proposta, componendo quello che lui stesso definì un lavoro mal riuscito. Anche il governo malese la pensava così e gli chiese di riscriverlo. E per aiutarlo nel compito di dare una sonorità malese alla sua composizione, gli inviò diversi dischi di musica popolare. Britten lo riscrisse, ma senza ottenere risultati migliori. Il governo alla fine decise di adottare l'inno di Perak, uno degli stati malesi, un brano che in Malesia era famoso come musica da cabaret. Ci sono anche dei compositori la cui musica è diventata un inno nazionale a loro insaputa. Nel 1990 Boris Yeltsin scelse la canzone patriottica di Glinka come inno nazionale russo, anche se si trattava di una musica senza parole, un fatto che segnò il suo destino fin dall'inizio. Appena eletto, Putin ripristinò subito il vecchio inno sovietico. Allo stesso modo, il Biafra, nei 3 anni della sua breve e travagliata esistenza come stato indipendente dalla Nigeria, adottò il poema sinfonico Finlandia di Sibelius come inno nazionale, rinominandolo Terra del Sole che Sorge. Ci sono poi compositori che si pensa abbiano scritto inni nazionali, ma che in realtà non l'hanno mai fatto. Quando l'Austria scelse il suo attuale inno, Terra di Monti, Terra sul Fiume, dopo che la Germania si era impossessata dell'inno di Haydn, molti erano convinti che facesse parte di una cantata di Mozart, la K623, per la chiusura della loggia massonica. Ma questo brano non compare nella partitura originale. E anche il governo austriaco ammette che è più probabile sia stato scritto dal meno celebre Johann Holzer. Per quale motivo, dunque, così pochi compositori celebri si sono cimentati con gli inni nazionali, lasciandoli così nelle mani di musicisti amatoriali? Una delle probabili ragioni è che molti di loro semplicemente si sentivano inadeguati al compito. Tirare fuori una melodia da un minuto che sia talmente efficace da unire un paese intero non è un compito facile, soprattutto per chi è abituato a scrivere opere o sinfonie. Prendiamo il caso di Verdi. Nel 1848, quando Milano si liberò degli occupanti austriaci, Verdi si rifiutò di comporre musiche celebrative e scrisse a uno dei suoi librettisti: «Mi venite a parlare di musica? Ma cosa vi siete messi in testa? L'unica musica che potrebbe essere gradita agli italiani in questo momento è il suono del cannone». Qualche mese dopo, però, sembra che abbia avuto un ripensamento quando uno dei capi della rivoluzione gli chiese di scrivere un inno che fosse talmente potente da diventare la Marsigliese italiana. Verdi scrisse «Suona la tromba», una marcia talmente fiacca che lui stesso si rese conto che si trattava di un fallimento. «Ho cercato di fare qualcosa che fosse il più possibile popolare e semplice», scrisse. «Usatela comunque, se vi va, oppure bruciatela, se non la ritenete degna». La canzone venne eseguita diverse volte, ma non riuscì mai a catturare l'attenzione della gente, che continuava invece a cantare la turbolenta Fratelli d'Italia, che oggi è l'inno nazionale italiano. Verdi si rese conto che era una canzone migliore della sua, dato che poi la usò per rappresentare l'Italia nel suo Inno delle Nazioni, scritto per la Fiera di Londra del 1862. Ci sono altre 2 ragioni possibili per cui pochi compositori famosi hanno scritto inni nazionali. Il primo è che la maggior parte delle persone, inclusi quindi i vanitosi compositori, è convinta che gli inni nazionali siano intoccabili. Rimpiazzarli è considerato impossibile. È come cambiare una bandiera. Poi c'è la ragione principale, quella politica. Se scrivi un inno, c'è una forte probabilità che già il giorno dopo venga cantato da persone che non ti piacciono o in un contesto che trovi insopportabile. Appena scrivi un inno, ne perdi subito la proprietà, per sempre. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Alex Marshall, Deficit Nazionale, dal numero di marzo del mensile BBC Music Magazine.